Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Una volta gli amori consumati venivano portati via dal vento come foglie morte. Oggi gli amori consumati rimangono in maniera indelebile tracciati nel nostro cellulare. Cosa fare delle foto degli ex? Cosa fare delle foto che hanno suggellato dei momenti indimenticabili di una storia d'amore che ormai è appassita, putrefatta, non esiste più? Bisogna stare molto attenti. Oggi vi spieghiamo perché. Letteralmente tappezzato i locali commerciali di Marina di Ragusa con le foto dell'ex fidanzata ritratta nuda. Con l'accusa di atti persecutori, violenza privata e diffamazione, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un tecnico ragusano incensurato di 43 anni. Una denuncia per diffamazione o un avviso, la prossima volta il reato sarà di stalking. A finire su un fascicolo della procura di Nuoro è un cinquantenne della penisola denunciato dai carabinieri di Siniscola per aver deciso di farla pagare cara all'ex fidanzata. Le foto scattate nei momenti felici sono finite sulla bacheca incontri con tanto di numeri di telefono e un chiaro invito: voglio incontrarti, chiamami. La donna, originaria di Nuoro ma da tempo residente a Budoni, in pochi giorni è stata tempestata di telefonate da così frequentatori del sito. Per lei è un dato di fatto che oggi facciamo tante fotografie. Perché? Perché abbiamo incorporata una macchina fotografica. Non usciamo più prendendo la macchina fotografica per fare delle foto. Abbiamo addosso sempre una macchina fotografica, che è la nostra appendice più fantasticamente utile a collegarci con il nostro prossimo, è il nostro telefono, il nostro smartphone. Noi comunque abbiamo l'abitudine ormai di fotografare ogni momento della nostra vita, o fotografare cose che ci colpiscono, ci piacciono, come se avessimo bisogno di una periferica della nostra memoria organica. È naturale, è gioco forza, che quando siamo impegnati in un rapporto amoroso, in una relazione, amiamo fissare i momenti migliori di questa relazione. È gioco forza che i momenti migliori di una relazione sono i momenti più intimi. È altrettanto scontato che i momenti più intimi sono momenti che, proprio perché si chiamano intimi, si vivono fra due persone, 3, 4, 5, 6, poi a seconda dei gusti, ma che comunque rimangono stretti in una cerchia abbastanza definita, che è quella delle persone, delle due persone o più, che vivono il rapporto amoroso. I rapporti amorosi non durano in eterno, le relazioni hanno un inizio e spesso hanno anche una fine, o perlomeno si attenuano. Che fine fanno quella sorta di istanti bloccati, fermati, intensi, profondi e sensualmente indimenticabili? Rimangono negli smartphone delle persone, uno li tiene, li cancella, li butta via o, come in questo caso, li usa come arma di ricatto, li usa come vendetta. Le foto fatte in un momento di intimità o le foto fatte in un atteggiamento ammiccante, ma fatto perché è un gesto d'amore, un gesto di passione, una condivisione, diventano delle armi terribili, strumento di vessazione. In qualche maniera questo ha posto un rimedio, che oggi capiremo quanto possa poi essere attuale, l'alta corte regionale di Koblenz in Germania, perché ha stabilito che un ex fidanzato debba cancellare tutte le foto della donna con cui non sta più assieme. L'ha chiesto lei, ha fatto ricorso alla corte, dice lui. Casomai, nel caso specifico, c'è proprio il fotografo anche di mestiere, dice: mi ha fatto tante foto nuda, spogliata, in vari atteggiamenti, alcune foto artistiche sono state anche esposte in mostre, altre messe in rete, altre non voglio che girino, quindi quelle foto non voglio che le lo abbia. E il giudice ha sentenziato che questo signore dovesse cancellare tutte le foto della propria ex fidanzata, eccetto quella in cui lei è vestita. Come si risolve questa cosa? Chi darà mai la certezza che una foto digitale, quindi riproducibile all'infinito, collocabile ovunque, possibilità di essere nascosta, ricollocata ovunque, condivisa, possa essere realmente cancellata? E come risolveremo il problema che le vite comuni o comunemente vissute hanno sempre più prove fotografiche? E come potremo, esisterà una maniera di fermare con la legge questa possibilità di vedersi riproporre il proprio passato amoroso anche in momenti che non vogliamo ricordare? 800 24 0024. Anna si è trovata su Facebook consegnata alla rete con quella fotose che forse non le è mai piaciuta. La regola dei social network ti vuole amico per entrare, esplori e condividi, fino all'eccesso che almeno un amico te lo fa perdere. Fra Anna e Marco però era già tutto finito. Lei avvocatessa romana di 36 anni, lui olbiese di 40, ora sono innanzitutto nemici, non solo ex. Se la vedranno in tribunale a Cagliari per lesione della privacy. Marco rischia di pagare 500.000 euro, il prezzo inimmaginabile dell'amarezza per una relazione finita. Addio con album su internet. Marco la sua foto l'ha anche commentata, non proprio con garbo. Davvero troppo per Anna, che parte al contrattacco. Conservate foto di atteggiamenti amorosi con persone con cui non state più assieme. Avete l'abitudine di farvi foto che poi magari è giusto che rimangano nella strettissima cerchia di un rapporto amoroso, sentimentale, di una relazione. E se la relazione finisce, cosa fate di queste foto? Le pubblicate in rete? Le buttate via? Le mettete in una memoria segreta per non farle vedere a nessun altro? È un problema interessante. 800 24 0024. Una volta come facevate? Avevate la foto che andava restituita? Ai tempi delle mie zie, quando una zia si lasciava con un fidanzato ufficiale, poi si portava la lettera, con la busta, con tutte le lettere d'amore e le foto fatte assieme. Ma grazie, allora era un cartoncino con il bordo dentellato, le prendeva e le riempiva di lacrime la zia finché non trovava un altro fidanzato, probabilmente. Oggi come si fa con una foto che è fatta di materiale impalpabile, che uno pigiando semplicemente un pulsantino del proprio telefono la manda in tutto il mondo? Stefano Ricci, buongiorno. Buongiorno. Avvocato, docente universitario di informatica giuridica, esperto di privacy. È un bel problema. C'è una possibilità che la sentenza della Corte di Koblenz possa entrare magari nella mente di qualcuno e dire: ma facciamo una norma europea per cui le foto degli ex, se in atteggiamento intimo, vadano cancellate? Quello che già abbiamo oggi a livello normativo riguarda trattamenti di dati particolari, riguarda in particolar modo la diffusione di questi dati, la loro pubblicazione e la loro divulgazione. È ovvio che quando questo avviene già oggi senza il consenso della persona ritratta si commette un reato, che è il trattamento illecito dei dati, che è quella che viene definita violazione della privacy, punita anche a livello penale. Quindi già oggi c'è questa norma. Non si possono diffondere. Ma nessuno ci può impedire di detenerle. La detenzione è prevista come reato specifico soltanto laddove si tratti di materiale pornografico che riguarda minori di anni 18. Beh, qui stiamo parlando di mature babbione che vanno in età già avanzata, quindi non è questo il problema. Come ne usciamo però? Perché, guarda, pongo il problema perché mi piace entrare nelle maglie di la necessità di far collimare l'antico diritto che ancora si basa sul diritto romano e il mondo che sta cambiando, l'idea di esistenza, l'idea di sostanza. E come fa, ti faccio la domanda, il giudice di Koblenz a assicurarsi che il fotografo abbia veramente cancellato queste immagini? Perché la sentenza dice non può detenerle, non dice non le può diffondere, che è dato per scontato, non può detenerle. Quindi gli analizzano tutte i suoi drive, le sue chiavette, le sue memorie digitali, vedere se ne rimane una traccia. E se l'ha messa in un cloud, lui come fa a capire che non ce le abbia? E qual è il possesso di un'immagine digitale? È mia se io so dove sta collocata, se la pubblico in un sito lo so soltanto io, o è mia se l'ho in una memoria fisica che ho in tasca? Questo è un problema assolutamente insormontabile. Io mi ricordo il primo caso analogo in Italia di quello che viene chiamato revenge porn, che alla fin fine è pubblicazione e diffusione di dati, appunto, OSE, che era un caso di Perugia che riguardava appunto due minorenni in cui era stata diffusa attraverso dei siti di file sharing. Sì, famosissimo, un fidanzatino fa l'amore con la fidanzata sul divanetto dei genitori, infame, lo filma, si chiamava Ciao Chiara, ricordo, girò tanto, e lo mette in rete, in cui c'è un tenero amoreggiare di due fidanzati, però non tanto per lei, che si è trovata naturalmente al centro, una città di provincia, pettegola, abbastanza incline alla maldicenza, quindi figuriamoci, è stata distrutta questa ragazzina. Ecco, in quel caso lì il giudice ordinò il sequestro e la distruzione del materiale, non rendendosi conto che era un risultato praticamente impossibile, perché nel momento in cui noi perdiamo la disponibilità di quel dato che viene diffuso ad esempio attraverso siti di file sharing, assicurarsi in maniera certa al 100% che il bene venga acquisito e distrutto è praticamente impossibile. Anzi, ti dirò di più, ricordo bene perché la seguì come giornalista, La sentenza detta ancora più valore al filmato, che in sé non conteneva nulla di paradossale rispetto a quello che si vede su YouPorn, tanto che diventò uno dei file più condivisi, si trovava in dei server cinesi, di paesi arabi, ovunque si trovava, e dunque si ripeteva, la gente lo ripeteva proprio per il fatto che era stata vietata la diffusione. Esatto, qualcuno lo chiama effetto Barbara Streisand, perché in un altro caso la cantante americana aveva richiesto la rimozione da un sito della foto che riguardava casa sua. Ecco, soltanto la sua iniziativa giudiziaria aveva portato ad una moltiplicazione esponenziale di questa fotografia, e quindi si era creato un effetto boomerang che da allora è diventato proverbiale quando si agisce in questi termini nella materia dell'informatica giuridica. Sentiamo Vincenzo, primo ascoltatore. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Mi sente? Il suo punto di vista. Sì, è il mio punto di vista. Innanzitutto credo che sia un'appropriazione indebita di identità altrui. La persona che ha fatto queste fotografie, che ha pubblicato queste fotografie, potrebbe essere denunciato per una cosa del genere. E su questo l'abbiamo già detto. La detenzione però, che fine? Se lei ha una fidanzata, una moglie, vi fate tutte le foto che volete, vi lasciate, rimangono proprietà sua o qualcosa che appartiene a entrambi? A mio avviso le fotografie, anche se fatte da nuda, sono di proprietà della persona che le ha effettuate, perché c'è il consenso della persona di essere fotografata. Che queste poi possano essere pubblicate, la persona si sente lesa, è un altro tipo di discorso, perché la persona ha pubblicato quelle fotografie sotto una falsa identità, dichiarando di essere la persona fotografata per quando non lo è. Allora potrebbe essere punito per appropriazione indebita di attimi d'amore passati. Di attimi passati, che sono i suoi, non appartengono a nessun altro. No, ma allora, fila il suo discorso. Filippo. Buongiorno a tutti. Stavo ascoltando, volevo dire la mia. Sì. Per una coincidenza stamattina ascoltavo Radio Maria, è una radio confessionale, però prendo e faccio mia questa affermazione, al di là del... Ma faccio nel senso che è d'accordo, concordo. Sono d'accordo sul fatto, non sono d'accordo sul fatto che ci si faccia foto, cioè il problema giuridico lo capisco, quindi c'è un vuoto legislativo e i giudici fanno giurisprudenza nel punire chi eventualmente fa un uso improprio, sì, le foto, ma in linea di principio dico che la persona che ama un'altra persona non fa foto, perché si parlava del fatto che chi foto intime, parliamo, foto di momenti di intimità, foto di momenti intimi, tu trasformi la persona in un oggetto. Se questo attizza entrambi e dà gusto a entrambi, dov'è il problema? Nel concetto della lussuria, che non ha nulla a che vedere con l'amore. Lei ma lussuria, sì, ho capito, l'amore è una cosa, lussuria è il piacere fisico, è il desiderio, è oltrepassare la soglia della banale... La mia opinione era questa, c'è il segno di decadenza dei tempi, a cui cerca di colmare la giurisprudenza. Perché, scusi, ma gli antichi non avevano la lussuria? Certo, ma erano anche pedofili, voglio dire, se per questo. Sì, vabbè, ma c'entra i pedofili con la lussuria? Cadullo a Ovidio giustificando la pedofilia. Ma che c'entra la pedofilia? Scusi, no, sta di ogni erba. Sto parlando di persone... che i poeti latini facevano del sesso sfrenato. Qua si sta parlando di una moda... Lei non fa il sesso sfrenato? No. Ma è una sua scelta, è la sua scelta, mica che corrompe la coppia, a cui devono far poi verso i giudici. Ma questo è il suo punto di vista, io rispetto tutti i punti di vista. Lei dice, io assolutamente sono per un amore finalizzato all'unione, alla coppia, ai figli, quello che vuole, quindi disprezzo la lussura. Ci sono tante persone che la lussura piace, la frequentano, la praticano, e sono la pratica fra adulti consapevoli e consenzienti, qualcosa fa star bene e rende allegri. A lei rende allegro qualcos'altro, e quindi sono ben contento per lei. Meno persone in giro che attingono al patrimonio generale della lussura, è comunque un limite. Melog, cronache meridiane. Parlando, ma lei ha viste le foto della tua ex? Non so di che cosa parli. No, certo, non lo sai, venite qui. Nazzo già le ha viste. Guardate qua. Bello, eh? Non sono io. No, sono io, ma dai. Non sono io, non siete sono identiche. Non ridi, forse sì. Non dovevi pubblicarle, sono cose 800240024, stiamo sul filo della surrealtà cercando di capire che fine abbia fatto una possibile foto che ricorda un momento amoroso passato, quando il giudice ci intima di doverla cancellare. Abbiamo sentito il legale Stefano Ricci che ci ha detto che naturalmente esiste già una legge, non le posso diffondere, ma le posso tenere, dove le metto, come le nascondo e perché soprattutto, come dice l'ultimo ascoltore, faccio foto. Massimo Lattanzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Massimo Lattanzi, psicologo, psicoterapeuta, fondatore dell'Associazione Italiana Psicologia e Criminologia, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking. Una delle armi più potenti dello stalker è proprio la messa in circolo di foto che la sua vittima, in un momento in cui c'era un rapporto condiviso, aveva accettato di fare con lui. Assolutamente sì, è una pratica sempre più diffusa che ha un'incidenza sempre più significativa nei casi di cyberstalking e di stalking. È una pratica veramente molto grave e distruttiva che può condurre a degli esiti psicologici molto gravi e tentativi di suicidio. Quasi quotidianamente noi come osservatorio riceviamo richieste di questo tipo essenzialmente da donne, ma anche in questo caso ahimè la parità sta facendo, sta un po' segnando anche questo divario. Molte donne ma anche molti uomini agiscono. Quello che noi possiamo dire, ho ascoltato con attenzione quello che prima è stato detto e anche l'esperto di informatica ha ben chiarito, è secondo me un qualcosa che è di digitale e di difficile cancellazione. Senti, ma quali sono le categorie, diciamo, delle persone che si rivolgono a te che maggiormente hanno il problema dell'angoscia di foto fatte in momenti di intimità che possa tenere il partner, magari farne un uso sbagliato, o semplicemente tenerle, gli dispiace che possa avere un ricordo tangibile di quello che per loro non esiste più? Guarda, se vogliamo identificare una categoria per incidenza maggiore è quella degli adolescenti, ma sempre più anche gli adulti diciamo un'età anche abbastanza avanzata, agiscono e subiscono questa forma di violenza che, come dicevate voi, dicevi tu benissimo, questi smartphone, questi tablet, ormai siamo online in tempo reale continuamente e spesso purtroppo che questa nostra vena sempre più voyeuristica viene appagata in questo modo, ma spesso purtroppo paghiamo dei dazi molto molto molto significativi, molto gravi, che portano nella maggior parte dei casi anche a dissoluzioni di coppie, spesso anche che hanno, diciamo, una carriera anche decennale e ventennale. Beh, certo, uno che poi vede in internet la foto della moglie o del marito in mezzo a una mandria di mandriani, certo, questo non fa certo piacere. Corrado, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Il tuo punto io di vista. Non vedo la novità del problema, nel senso che... da quando c'è la foto digitale la novità c'è. Ok, d'accordo, però così le stesse norme legislative che valevano ieri valgono anche oggi, mi spiego. Se io decido di farmi una fotografia porcellina con la mia attuale fidanzata, mi assumo un determinato rischio. Ve lo assumete insieme, diciamo. Ce lo assumiamo assieme. Diciamo una cambiale in bianco verso un futuro che non si sa poi se rimarrà sempre insieme, ecco. Esatto, a quel punto un domani ci separiamo, conserviamo nei nostri cassetti magari un po' nascoste queste immagini e siamo tutti contenti. Non è che perché se un domani uno dei due da fuori ramato e pubblica su Facebook le mie foto... E quello è un reato, quello l'abbiamo detto, quello è un reato. Esatto, e questo che perché allora... Sì, ma tu puoi, tu potresti avere il timore che comunque... intervenire a monte, cioè ci separiamo, dobbiamo buttare via le foto. Mi sembra una privazione del mio diritto di perché una donna soprattutto è agitata dal fatto che lui abbia queste foto, cioè domani magari le fa vedere un amico, ci sghignazza sopra, le continua a guardare, non sono voglio i che rischi che ti sei sono i rischi che però, ti ma sei però preso. Il suo discorso devo dire che fila perfettamente, io infatti ho una visione molto laica del problema, te le sei fatte entrambi adulti, vi fate le foto, sapete che vi darà gusto, vi diverte, vi salda e vi cementifica il rapporto in quel momento, vi piace rivedervi, quanto siete belli, quanto fate l'amore, però sappiate che questa roba rimane, l'amore finisce, evapora, ma la foto rimane. Stefano Ricci, è mai accaduto che si ponesse in una delle cause che ha incontrato un problema simile? Allora, per quanto riguarda la mera detenzione, no. Per quanto riguarda la diffusione e comunque l'uso improprio, abbiamo parlato di stalking, quindi di atti persecutori, estorsioni, cose di questo tipo, sì. E anzi, è un fenomeno che sicuramente aumenta molto ed è aumentato tantissimo proprio in conseguenza dello sviluppo delle tecnologie. Quindi è un fenomeno sempre più presente. Tanto è vero che in alcuni stati, a partire da alcuni stati degli Stati Uniti, ma adesso in Israele, in Gran Bretagna, ci sono delle iniziative legislative, delle leggi o dei disegni di legge che vogliono punire in maniera a sé stante qualsiasi uso improprio che venga fatto di queste fotografie, quello che appunto ho definito in precedenza il revenge porn, proprio perché la diffusività di queste foto crea dei danni che fino a 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ovviamente non erano. Io posso, ti saluto e voglio aggiungere una postilla che non c'entra niente questa trasmissione, ma c'entra con le foto. Ho ritrovato io nel mio archivio digitale delle foto, le foto molto tenere di me con mio figlio, che sono state fatte un anno fa da un fotografo che ha passato una giornata con lui, una giornata fantastica in cui mio figlio, che è autistico, con lui comunicava perfettamente.